Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidi, perché la puntata di oggi, che prosegue quella di ieri, è molto interessante. Parliamo di assicurazioni online. Prima informazione: radio24.it, potete scaricare le trasmissioni, ascoltarle tutte e anche interloquire con chi ha un blog, il mio è Guardioladri. Seconda informazione: la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, il nostro radioascoltatore Fogliano, Vincenzo Fogliano, ci ha raggiunto per dirci: allora, io sono un assicurato online con Direct Line, finora ho usufruito dei benefici della legge Bersani e quindi dei benefici della legge grazie alla classe di merito che ha mia moglie con un'altra assicurazione. Di punto in bianco, io quest'anno, non essendo cambiato nulla rispetto agli anni precedenti, con Direct Line mi trovo a pagare un 30% in più. Attenzione, il nostro Vincenzo Fogliano è molto scafato, come diciamo noi a Roma, è molto spirto, come dicono in Calabria, sono un cultore dei dialetti, e quindi è andato a vedere anche le altre assicurazioni e fanno tutte la stessa cosa, si comportano tutti nello stesso modo. Allora, noi abbiamo ascoltato Andrea Rapetti, che è il direttore generale di Zurich Connect, il quale ci ha detto: attenzione, la classe di merito è soltanto una delle tante tesserine che si mettono nel puzzle, che poi va a comporre il premio e la tariffa, cioè quello che il nostro Fogliano, ma invece che essere Fogliano può essere Galullo, Previato o Coffaro, che sono il regista e la mia assistente in studio, applicano al cliente. Morale della favola: Fogliano paga il 30% in più. Buongiorno Rapetti. Buongiorno. Allora, io però non sono riuscito a capire perché, se voi fate della classe di merito una delle tante tesserine e nulla è cambiato rispetto al passato, ma perché Fogliano paga di più? Però consento di fare una domanda, perché sì, ci sono due polizze, se ho capito, in ballo. Mm. Una è quella di Fogliano, che è un nostro assicurato, mm-hmm, e l'altra è quella della moglie, che, se ho capito bene, sta passando da un'altra compagnia alla nostra, o comunque ha fatto questa valutazione, mm-hmm, e voleva valutare l'applicazione della legge Bersani adottando la classe di merito di proprio marito. Quindi, se non sbaglio, il confronto è tra la polizza che la moglie potrebbe avere non applicando la legge Bersani, ma facendo valere la propria classe sesta con la sua ottima storia assicurativa, rispetto allo stesso preventivo che otterrebbe invece in applicazione della legge Bersani. Allora, quindi c'è un'altra compagnia, questo già lo sapevamo, ma c'è in ballo anche l'eventuale passaggio della moglie del nostro radioascoltatore dalla sua precedente compagnia assicurativa alla vostra compagnia assicurativa. Allora, la questione è già abbastanza complessa di sé, perché comunque, se nulla è cambiato, un aumento, a me sembra un aumento che ricade sul cliente. Sentiamo il nostro Vincenzo Fogliano. Buongiorno Fogliano. Allora, buongiorno. Allora, la vicenda è ancora più intricata, allora, perché sua moglie sta pensando di... No, cerco di semplificare anche a beneficio degli altri ascoltatori. Assolutamente. Allora, noi abbiamo usufruito della Bersani 2 anni fa, quindi ne abbiamo usufruito, perfetto, sì, e sì, abbiamo avuto questo vantaggio. Certo. A questo punto, fino all'anno scorso, le compagnie non chiedevano se non aveva usufruito o no. Adesso prendiamo atto che il dottore Rapetti, come tutte le altre assicurazioni, hanno introdotto questo ulteriore, diciamo, variabile: ne certo, è usufruito o non ne è usufruito. Ma perfetto, lei questo l'ha detto chiaro e tondo fin da ieri, cioè io certo, lei adesso ha detto... Quindi paghiamo di più perché è stata introdotta questa nuova clausola, come è stato introdotto se uno ha un figlio adolescente o, diciamo, 18enne neopatentato, paga più, e tutte queste belle cose qua. Quindi abbiamo introdotto una nuova clausola che va solo a danno dell'assicurato. Allora, diciamo, quindi lei ti va a danno. Sì, ma allora, questo qui è già chiarissimo da ieri e dai nostri radioascoltatori. Voi avete usufruito della legge Bersani. La legge Bersani nasce per dare, come dire, non dico una mano, ma in ogni caso fare chiarezza su quello che è il rapporto tra cliente ed assicurazione. Quindi dare una mano nel momento in cui si passa da un'assicurazione all'altra e si trascina la classe di merito e i buoni, come dire, il buon modo di aver guidato le macchine in questi anni, si trascina da un'assicurazione all'altra. Lei ci sta dicendo: ora le compagnie chiedono, hai usufruito della legge Bersani? Se la risposta è sì, anziché avere una medaglia, una coccarda sul petto, uno dice: sai che c'è, ti faccio pagare il 30% in più. E così, Fogliano, è questa la sintesi? Non sapendo quello che era successo prima, l'esempio che faceva ieri il dottore Rapetti, se uno stava in 12ª classe effettivamente ha avuto un grande beneficio. Certo. Ma per esempio nel caso di mia moglie, che era sesta classe nel 2008, adesso passerebbe, diciamo, in terza classe se non avesse usufruito della Bersani. Col fatto che si dice tu però ne hai usufruito e quindi io non lo so com'era la tua situazione precedente, lei ci va a perdere rispetto, certo, al fatto che... E non è che mi viene detto, allora se tu non ne vuoi usufruire fammi sapere qual era la tua situazione precedente, io ti applico una tariffa. Certo. No, ormai col fatto che io ne ho usufruito sono fregato. Insomma, è pure la beffa. Certo, nelle pieghe, diciamo, della legge le assicurazioni hanno trovato legittimamente, mi pare di capire, qualcosa che permette a loro di avere delle tariffe e dei premi più alti. Rapetti, lo conferma o lo smentisce? Devo fare una precisazione, no, lo smentisco in questo senso. Mi sembra che questo sia diventato ed è correttamente il punto centrale della questione. Bene. La domanda che ha citato il radioascoltatore non è un parametro di valutazione tariffaria, non lo è assolutamente. Questa domanda è stata introdotta perché consente, nel caso venga risposto sì, di raccogliere correttamente la storia assicurativa del cliente. Ma è una storia assicurativa? Abbiamo riscontrato dei casi in cui non veniva compilato e dichiarato correttamente quello che era. Sì, ma Rapetti, ho capito. Nei cinque anni degli anni passati. Sì, ma i truffatori e i delinquenti esistono da quando è nato il mondo, però Fogliano non è né un truffatore né un delinquente. Cioè, non ci troviamo. Ma non è una truffa, mi scusi. Non è nei casi che lei sta descrivendo. In buonissima fede, ci mancherebbe. Ho capito, ma in buonissima fede Fogliano non ha una storia pregressa di furbizie, però paga di più, insomma. Ma ripeto. No, mi scusi, lei sta però mettendo insieme cose che non c'entrano. No, io sto ricostruendo la storia. Io non ho. La valutazione del rischio. No, Rapetti, scusi, Rapetti, un attimo. Io non metto in mezzo nulla perché il mio compito non è quello di mettere in mezzo le cose, ma di raccogliere e fare la sintesi. Questo fa un giornalista. Del resto lei nulla sta smentendo di quello che sto dicendo io o Fogliano. Ho sentito che la domanda ha usufruito una Bersani sia un elemento che concorre alla valutazione del prezzo. Ma questo è nei fatti, però non lo sarà, ma nei fatti Fogliano paga di più o vuole smentire anche che paga di più? Rispetto all'utilizzo della propria maturata storia assicurativa, in questo caso rinunciando alla propria storia assicurativa può pagare di più. Ma come fa uno a rinunciare alla propria storia assicurativa senza saperlo? Perché Fogliano non ha saputo in quel momento che rinunciava alla propria storia assicurativa, che veniva a pagare un 30% in più. Questo non mi pare il massimo della trasparenza a me. Mi sembra che stiamo sempre parlando di sua moglie e mi sembra che stiamo parlando di sua moglie assicurata con un'altra compagnia. Va bene, insomma, allora le assicurazioni fanno trasmissione radio. Ovviamente noi invitiamo il dottor Fogliani, il signor Fogliano a mettersi in contatto. Sì, ma questo qui lo farà sicuramente. Sicuramente. Va bene, allora questo qui lo farà sicuramente. Questo lo farà sicuramente. Allora, Pellino, io direi di lasciare a lei, Raffaele Pellino, presidente dell'UCI, Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l'Italia, una risposta. Come sapete, io non voglio mai avere prima le risposte, perché il radioascoltatore si fa la sua opinione. Noi abbiamo messo di fronte le parti che hanno espresso le loro legittime posizioni. Pellino, a lei la conclusione. Super parte, se lei è l'esperto del sole, ormai non ho perso il numero degli anni, sono da 20 anni al sole, quindi tanti, almeno 20 anni, esatto. Allora, sono prego Pellino. Un po' di più. Allora, qui c'è stato intanto un richiamo improprio alla legge Bersani in questa occasione. Ma da parte di chi? No, da parte di tutti, nel senso che il signor Fogliano praticamente ha ottenuto i vantaggi della legge Bersani quando ha stipulato a suo tempo con altra compagnia una polizza d'assicurazione per un veicolo acquistato per la prima volta dalla signora, nuovo usato che sia, e fruendo in questo caso della classe di merda più favorevole di un componente familiare, in questo caso il marito. Oggi, pensando di cambiare compagnia, propone alla Zurich Connect il suo contratto. Trova nel questionario della Zurich Connect una domanda, esatto, che non si aspettava di avere, e cioè quella di dire: hai fruito della legge Bersani? Questa domanda si spiega per il fatto che indubbiamente si è detto un po' impropriamente, ma non tanto, che la legge Bersani ha consentito di azzerare una pregressa storia assicurativa. Io ho una macchina in classe 12, la vendo, ne compro un'altra e quest'altra fruisce. A questo punto la compagnia elabora una propria tariffa, esatto, nella quale tiene conto anche di questo parametro e propone, avendo riscontrato questi azzeramenti di storie pregresse, e propone al signor Fogliani una condizione contrattuale che valuta liberamente e decide liberamente se accettare o no. Esatto. Quindi mi sembra che siamo nel campo della contrattazione. Esatto, ma infatti è diretta, questa, senza intermediari. Certo, certo, certo, certo. Ha detto che lui non acquista contratti di assicurazione auto tramite mediazioni agenziali o di broker, preferisce utilizzare il canale diretto, prende atto di queste condizioni, le confronta sul mercato, ma sono condizioni contrattuali che nascono, come allora, diceva... Allora, io Pellino la interromperei però, perché è chiarissimo, la sintesi quindi è quella che, come ci diceva anche Rapetti, la composizione della tariffa, quando si azzerano le precedenti posizioni, viene... come dire, proposta dalla compagnia e sottoscritta dal cliente, rimane, come dire, sospesa per aria questa domanda che però alla fine a farne le spese è, guarda caso, il cliente che in condizioni immutate paga di più, e questo però sono le pieghe della legge, sono la legge Bersani che consentono questo, e non sta a me ovviamente eliminare queste storture o queste incongruenze e segnalarle. Sì, l'abbiamo fatto, grazie a tutti i nostri ospiti, a Michele Previato in regia e a Valeria Coffaro in studio, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.